Il tuo profilo Instagram è molto interessante. Ricominciamo. Occidentali Scarma. L'indigesto. L'infotainment del pomeriggio. E alle 17 e un minuto, quando hanno appena aperto i cancelli di Fico Italy World, questa nuova Disneyland del cibo, questo parco agroalimentare che si trova all'ex, a questo punto, CAB di Bologna, comincia questa puntata speciale dell'Indigesto, proprio dedicata a Fico, e quindi non potevamo fare altro che chiamarla Fico Indigesto. E poi, insomma, se voi pensate che noi siamo dei detrattori, degli antagonisti, nella vostra testa, insomma, noi cercheremo di parlare di questo, di questa operazione, anzitutto, perché non è semplicemente una cosa nuova, è un'operazione anche costata un sacco di soldi, tra l'altro, e in questa puntata con tanti ospiti. Fra poco ci collegheremo con la nostra Sardoni, come se io fossi mentana, e avevamo Alessandra Sardoni come inviata. No, ci collegheremo con Anna Uras, che andrà a tastare un po', si trova proprio a Fico e tasterà un po' il polso dei partecipanti, del pubblico, dei cittadini che sono andati all'inaugurazione. Permettetemi di presentare però il primo personaggio, il primo ospite, diciamo così, che abbiamo in studio. È un po' un talebano alimentare, misterioso, diciamo, ma convenzionalmente lo chiameremo Guglielmo. Buon pomeriggio, Guglielmo. Buonasera, direttore. Del resto è il mio nome. Io sono un po' emozionato innanzitutto per la radio. Non mi ritengo poi così talebano dal punto di vista alimentare, ma è da comprendere. Da tanto tempo che manco da Bologna, ma decenni perso per lavoro, per passione, tra la campagna polesana, la pianura romagnola e quello che è una campagna bellissima anche ferrarese. Ovviamente adesso abbiamo questo pesco, no, fico, ok, mi sbaglio. Sì, sì, è un fico. Non facciamo subito come fico. Emilio Fede che sbagliava i nomi, tipo infatti. Di Prodi, Brodo, cose così, ecco. Fico. Abbiamo altri argomenti da fico. E okay. Quindi noi con Fico avremo finalmente una grande tradizione per la nostra città di Bologna, che immagino, come vi ho detto, è da tanto tempo che manco dal centro, beh, vicino alle due torri e vicino al Crescentone. Non è proprio vicino al Crescentone il fico, però vabbè. Ok, però ci saranno tante trattorie tradizionali, tipiche, dove tortellini, tagliatelle, polpette coi piselli, bollito con purè, crema, fior di latte, la classica torta di riso, il mezzo di vino bianco, il mezzo frizzante, lo sfuso, insomma, beh, ci sarà. Va un po' più di moda la pericena adesso, se devo dire. Ah, ho capito, quindi queste cose, se io vado in via degli Orefici faccio fatica. Non lo so se li trovi, perché io frequento la provincia, come sai, e del resto è quasi provincia Fico, perché è quasi Granarolo dell'Emilia, quasi quarto inferiore, però insomma di questo avremo modo di parlare. Intanto ci ha raggiunto l'altro nuovo ospite, che in realtà anche lui è una voce che avete sentito spesso su queste frequenze e che ha recensito in un articolo molto divertente questo parco agroalimentare, questa Disneyland del cibo, che è Davide Turrini, giornalista del Fatto Quotidiano e anche uno dei conduttori di quel programma ignobile di cinema che c'è il giovedì. Bravo, sera. L'hai detto così, è ignobile, più dell'ignobile oserei dire. Che è Paura in palcoscenico. Buon pomeriggio anche a te. Buon pomeriggio a tutti, buon fico Piana. Mi presento, sono Guglielmo. Lui è Guglielmo, è il nostro talebano alimentare misterioso. Ti chiedo scusa, sì, sono arrivato ecco così. Bene, uno si prepara le gag per due giorni e poi finisce così. Dopo andremo a mangiare un buon bollito da fico, perché certo. Finalmente adesso, è la grande tradizione. Mentre voi vi fate i cazzi vostri, vi dico già quali sono le prime, l'introduzione appunto a questa inaugurazione che è avvenuta pochi minuti fa. Come dicevamo, hanno appena aperto i cancelli con una mezz'oretta di ritardo. Era presente mezzo governo, era presente il premier Gentiloni, il ministro Poletti, il ministro Franceschini, il ministro Galletti, Merola, Farinetti, Segre, insomma tutto il gota dietro insomma a questa operazione, sia politicamente che anche economicamente, era ovviamente presente. Però vorrei leggervi solo i titoli dei lanci di agenzia che sono finora usciti sulla Dire e su Fico, perché valgono da soli la dimensione di quello che sarà questa operazione. Fico: arriva il premier Gentiloni, Farinetti gli mostra le mucche. Vi giuro. Beh, magnifico. Magnifico. E stiamo toccando delle vette, diciamo, dell'agroalimentare mai raggiunte, forse sì. Nemmeno con i Campbell di Andy Warhol. È la tradizione, questa è la grande tradizione che si fa anche, ricordate quando ai tempi della nostalgia le mucche giravano da una campagna all'altra, certo, per far vedere che erano sane, belle, feconde, cariche di latte. Feconde, cariche di latte, le mammelle ciondolanti. Gonfie, sì. Va sì. Bene, leggo qualche altro titolo, poi mandiamo il primo brano perché dobbiamo fare il primo collegamento. Il Movimento 5 Stelle è andato in sopralluogo e boccia Fico, è un duty free senza aerei, didattica oscurata, sonvezionato l'ennesimo centro commerciale. Sono un po' dei disfattisti, dei gufi, ecco, direi. Sì, sempre sì, lì a iettare, sì. Va male, Farinetti buh, oddio no. Ma dai, ci sono le tagliatelle? Cioè, ma certo, okay. Non c'è la nonna Pina però, che è stata, sì sì, okay. non apparteneva al futuro. La polpette con piselli? Allora, polpette con piselli, sì, quante ne vuole? Beh, un bel piatto, perché insomma io è da un po' che manco da Bologna. Ah, allora guardi, sono 30 euro. Ah, però, 32. Così, ho capito. E così, appunto, è vero, Turrini ha appena introdotto un argomento che affronteremo. Io mi pento già di avervi invitati, però no. Leggo questa, sto scherzando ovviamente, leggo quest'altro titolo. Fico: per il Grana Padano c'è la scaffalatura high tech antisismica. No, vabbè, ma qui siamo a dei livelli. Ma te la mostrano quando vai lì da Fico, ti fanno scossare così e colà. No, si vede che appunto con sì. Il terremoto che non certo. Ha portato bene ovviamente alle forme, neanche alle forme di parmigiano, stavolta si sono messi un po' avanti. Eh sì, si sono messi avanti. Andiamo con la musica e fra poco entriamo nel vivo di questo speciale. Spaghetti, pollo, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. Invece ti ricordi che appetito insieme a te, a The Dry. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown, l'orchestra ripeteva Shubidoo. Da solo un disco per tornare giù da te a Detroit. Lola, ho fatto le pazzie per te. Ricordi che notti di follie a Detroit. Spaghetti, insalatina, una tazzina di caffè, a malapena riesco a mandar giù. La gente guarda e ride, non è stata insieme a noi a Detroit. Eh sì, questo era Fred Bongusto con Spaghetti a Detroit, che ci riporta insieme al Fico Indigesto, questo speciale su Fico, e siamo già collegati con il luogo appena inaugurato. Il luogo con del delitto. Italy World, dove c'è la nostra Sardoni, che Hola. È Anna Uras, che saluto. Buon pomeriggio, Anna. Sì, buongiorno Ale, buongiorno a tutti gli ospiti in studio. Ciao, e buongiorno ciao. Anche ai nostri ascoltatori. Insomma, sì, siamo qua, hanno appena aperto. E ho appena trovato due signori che incredibilmente si sono detti disponibili a rispondere Eccomi. A qualche domanda. Bene. E quindi, se voi ci siete, iniziamo a sentire cosa ne pensano di questo Fico che è appena aperto. Certo, facciamo, certo. Sentiamo. Allora, se voi siete... Pronto? Pronto, Paolo. Sì, buonasera. Paolo, lei cosa pensa di Fico, perché si trova qua in questa giornata inaugurale? Ma siamo voluti venire a vedere l'inaugurazione, da tanto tempo che se ne parlava. E siamo appena entrati, però sembrerebbe molto bello. Senta, ha fame? Ma intanto, visto che siete venuti qua, come ci siete arrivati? Perché sono venuti in bici e non è stato facilissimo. Noi siamo venuti in macchina, però siamo un po' vicini, insomma. In macchina è stato molto semplice, insomma. Posso farle una domanda, carissimo? Secondo voi cosa lo rende diverso rispetto a un altro centro commerciale? Chiedo scusa. Ho effettivamente è un po' prematuro per dare un... Anna, lasciaglielo che lo veda almeno, no? Ci sono degli eventi, ci sono varie cose, però ripeto, siamo appena entrati, al momento facciamo fatica a dare un'opinione su questo tipo di domanda. Paolo, signor... va bene, grazie, buona no vista. Lasciatemi il signor Paolo un attimo, vabbè, che... però non lasciamo gestire Anna, sennò qua non ne usciamo vivi. Ok, va bene. Anna, sì, effettivamente, come dire, se è appena entrato è difficile che abbia un'impressione. Concentriamoci in questo primo intervento su come dire, le ragioni che li hanno portati lì, cioè perché, per quale motivo hanno voluto a tutti i costi partecipare a questa grande inaugurazione. Va bene, allora adesso solo un secondo che cerco qualcun altro disposto a rispondermi. Scusami, saranno migliaia, centinaia di migliaia, no? Le persone lì che stanno entrando. Sì, quante... ma hanno, avendo appena aperto i cancelli, sono tutti fiondati. Fiondati, è il buffet. È il buffet. Di fronte al bar della mortadella. Ma hanno i piattini di carta? Ci sono... sì, i piattini di carta. Ah, i piattini di carta, eccoci qua. Molto eccoci. Bene, questo è fondamentale. Ma senti Anna, qualcuno ha già preso la biciclettina con le cassette per fare la spesa? Qualcuno è già salito? Allora, devo dire che ce n'era qualcuna mancante quando sono arrivata. Le hanno già rubate? Piazza Verdi. Però può essere che qualcuno l'abbia presa, perché arrivare qua in bici era davvero molto difficile. Ho visto altri due signori, adesso proviamo a chiedere a loro. Sentiamo. Però parla nel telefono, Anna, sennò se senti solo tu e non è così divertente qua. Tra l'altro, appunto, abbiamo già sentito che Anna cerca di fare della polemica sulla questione dei trasporti, che è stata una delle polemiche prima dell'apertura di Fico, con questa navetta che costa l'ira di Dio, sì. Costa 5 euro dalla stazione a Fico e saranno quanti chilometri? 5 chilometri? Neanche. 5 chilometri, insomma, un euro al chilometro, non è mica male, insomma. Sì, sono dei vecchi autosnodato, Iveco, no? Che come dicevo, poi si incastrano nell'angolo tra Rizzoli e Indipendenza e invece, è lì. Cioè, si muovono agilmente, insomma. Ci sei Anna? Ci sono e ho trovato un'altra ragazza che sta mangiando effettivamente il panino con la mortadella ed è disponibile per un'intervista. Allora, prima di tutto le chiedo come si chiama. Mi chiamo Martino. Ah, non ha la bocca piena. E poi ti volevo chiedere che cosa ti ha portato qui a Fico. Lavoro qui come promoter. Ai. E sta mangiando in orario di lavoro? Non si fa. E lavorando da qui, insomma, cosa ne pensi a questo punto? È molto bello, molto innovativo, c'è un sacco di gente. Ma ti verrà trattenuto il panino? Tu lavori qua, giusto? E come ci vieni a lavorare a Pippo? Con la macchina. Fatti un po' di problemi per i pass, perché non sono stati ancora rilasciati. Perfetto, ti ringrazio. Ma Anna, potresti chiederle se sente la differenza nel mangiare la mortadella, se sente che è IGP? Mi chiedono dallo studio, scusa, se senti la differenza nel mangiare la mortadella, si sente che è IGP? Non è IGP. In effetti voi sapete qual è il gusto IGP, io no però, non lo sapete, però lo immaginiamo, cioè immaginati se un tu IGP. Vai a Occhio Bello, è tutto IGP, è tutto IGP. È tutto IGP. sì. No, ma scusa Anna, possiamo chiedere un'altra domanda? Ma lo chiedeva il qui Guglielmo, sì? Diceva, ma te lo detraggono quel panino, la ragazza, puoi chiedere sullo stipendio? Scusa, mi chiedo un'altra cosa dallo studio. Questo panino te lo detraggono dallo stipendio poi? No, me lo sono pagata io. Siamo a dei livelli. Tanto dato, tanto avuto. Ok, va bene. Va bene, grazie Anna per questo primo collegamento. Perché sì? Mi chiedeva di aggiungere un'altra cosa. Sì. Alla fine sì, si creano dei posti di lavoro, però comunque sono tutte persone laureate con 5 anni di laurea magistrale che lavorano come hostess promoter, come addetti vendita o come commerciali. C'è un fare polemico in questa no, ecco, più che altro, sì, questa è una cosa importante. Poi, Anna, non so se mi senti, appunto, oltre a questo, che è un sottoinquadramento rispetto al titolo di studio, evidentemente, c'è anche la questione della durata dei contratti. Non so se è ancora lì Martina e se li puoi chiedere quanto dura il suo contratto o il contratto di altri lavoratori. Sì, è ancora qui, mi chiedono quanto dura il tuo contratto. Questo weekend e il prossimo. Ah, questo weekend è il prossimo. Rapido, però si sa chi promuote. Sì. È l'ottimismo, è il sapore della vita. Va bene, allora grazie Anna per adesso, poi ci ricollegheremo nel corso della trasmissione. Noi proseguiamo con un altro po' di musica, poi abbiamo un'intervista seria questa volta. Beh. E poi dopo, lasciamo spazio anche ai due ospiti in studio che li vedo molto carichi. Fateci largo che passiamo noi, sti giovanotti di sta Roma bella, siamo ragazzi fatti col pennello, e le ragazze fanno innamorare, e le ragazze fanno innamorare. Ma che ci frega, ma che ci importa, se lo star vino ci ha messo l'acqua, e noi è dimo, e noi è famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro, è meglio il vino dei castelli che questa zozza società. E se per caso vi è il padron de casa, de botto della chie della pigione, e noi a rispondema sur padrone, tamo pagate in te pagamo più, tamo pagate in te pagamo più. Che ci rifrega, che ci rimporta, se lo star vino ci ha messo l'acqua, e noi è dimo, e noi è famo, ci hai messo l'acqua e non te pagamo, ma però noi siamo quelli che gli rispondemo in coro, è meglio rapido dei castelli che questa zozza società. Lando Fiorini con Ma che ce frega, ma che ce importa, e torniamo in diretta al Fico Indigesto, questo speciale sull'inaugurazione di Fico. Tra l'altro qui sulle agenzie non c'è uno straccio di discorso che ha fatto Gentiloni, forse non ha parlato, ha semplicemente mangiato mortadella. Esatto. Allora, in attesa che il nostro prossimo ospite telefonico trovi la collocazione adatta, insomma, per riuscire a parlare senza disturbo, prima faccio un breve riepilogo delle polemiche che hanno preceduto l'apertura di Fico. Quella della navetta esosa, lo abbiamo detto, c'è connessa al tema della mobilità anche il fatto che la pista ciclabile che doveva arrivare a Fico in realtà non è ancora ultimata, ci sono diversi tratti che non sono congiunti fra loro, quindi è abbastanza difficile. Dopo, se ci sarà tempo, sentiremo anche un estratto dell'intervista alla presidente della Consulta della bicicletta, Simona Larghetti. C'è la questione della formazione di alternanza scuola-lavoro gestita da un Randstad, una multinazionale della interinale, diciamo così, che ha sollevato le polemiche di, ad esempio, di Lubo, uno dei collettivi universitari, e poi abbiamo anche la questione del lavoro, che lì appunto questo lo approfondiremo. Tra le altre cose, Antonio Morosi, ex assessore del Comune di Bologna, giornalista, ora lavora per La Verità, che vabbè, insomma, una testata un po' così, ha sollevato il tema vero, perché a 1,5 chilometri in linea d'aria da Fico c'è l'inceneritore di Via del Frullo, quindi insomma non è qualcosa di proprio ambientalmente bello. E poi ancora la questione dei cartelloni in tangenziale. Il Movimento 5 Stelle ha sollevato questo tema dicendo che il codice stradale vieta proprio di fare pubblicità a un'azienda privata, di fatto, e invece sul cartelli della tangenziale troviamo la scritta Fico Italy World. E ancora l'ultima cosa, oggi l'assemblea legislativa non si è svolta per lasciare che gli assessori, il presidente, la giunta regionale andassero a presenziare all'inaugurazione. È vicino all'inceneritore, viene bene l'affumicato, i bruciatini. Sì, lo spec, esatto. Ma già giovedì scorso c'erano un sacco di amministratori, funzionari, impiegati in libera uscita, anche oggi. Mamma mia, due giorni di ferie. Però c'è attenzione, perché invece c'è un tema che, dire, riguarda l'assetto societario di Fico, per il quale paradossalmente, o forse non paradossalmente, Fico potrebbe essere legato indirettamente o direttamente a multinazionali dei pesticidi. È così, Wolf Bukowski? Ciao, grazie. Guarda, io oggi ho pubblicato questa piccola anticipazione di un pezzo che uscirà martedì su JAP, in cui ho semplicemente seguito, messo in fila alcuni assetti proprietari, no? Il Prelios SGR è la società di gestione del risparmio che ha vinto una gara d'appalto, che è una cosa limpidissima, per gestire il fondo PAI. Ci sono diversi fondi, fondazioni attorno a Fico, però bisogna fare attenzione, si può fare confusione. Fondo PAI è quello che gestisce l'investimento. E Fondo PAI è gestito da SGR. Secondo la Repubblica di qualche giorno fa, SGR Prelios. Secondo la Repubblica di pochi giorni fa, Prelios SGR è anche un investitore di questo stesso fondo che gestisce. Prelios SGR, a giudicare dal suo sito e da notizie giornalistiche, appartiene a Prelios, questo è evidente. E Prelios a sua volta ha come maggiore azionista tra quelli votanti, diciamo, Pirelli. Pirelli è noto che da un paio d'anni è di CEM China. C'è stato un perfezionamento nel 2017, dopo che la UE ha finto di opporsi, ha finto di esprimere perplessità sul takeover di CEM China, quindi sull'acquisizione di CEM China nei confronti di Syngenta. Ma dopo questo, queste perplessità sono cadute, è prevalsa la ragione del denaro, evidentemente, e dunque insomma CEM China, che è la proprietaria anche di Syngenta, quindi colosso mondiale dei pesticidi, insieme a CEM China stessa. CEM China vende pesticidi e fertilizzanti non brevettati, cioè generici, per usare il termine dei farmaci. Syngenta vende quelli brevettati, insieme costituiscono un polo impressionante, e se li segui nelle loro miliardi di partecipazioni azionarie, alla fine trovi anche Prelios SGR. Questa è appunto una ricostruzione che ho fatto, ovviamente può essere smentita, però insomma giudicare dei siti aziendali, dei siti istituzionali, funziona. Non mi interessa, non l'ho vissuta né come scandalo, non lo vivo se fosse vero, se fosse come dicono, né uno scandalo né altro, è semplicemente la dimostrazione che non esiste un capitalismo pulito, un capitalismo virgolette nazionale, sano, che è quello incarnato da Fico, è un capitalismo cattivo dell'alta finanza, dei cinesi, di Soros, il terribile ebreo e altre stupidaggini nazionalistiche e razziste che si sentono in giro, ma esiste un capitalismo unico che fa affari indipendentemente da qualsiasi altra condizione. Finito. Scusami, se non ci fosse Wolf Bukowski saremmo davvero messi molto male. Senti Wolf, posso chiedere una cosa? Sono Davide Turrini, ciao. Senti, ciao, ti volevo chiedere, ma ci ha messo un bel po' comunque Prelios per mettere insieme tutti i vari pezzettini, no? Nel senso che secondo me poi questo ritardo, no? Sì, perché l'apertura di Fico è stata rimandata di continuo, un anno, due anni, insomma è passato molto tempo. Ne sono passati quattro alla fine. Non sono pochi, direi. No, io mi ero fatto anche l'idea, andando anche a Milano, una serie di conferenze, che poi una grossa difficoltà fosse anche questa, poi di mettere insieme questi capitali. Tu avevi avuto questa impressione, qualche dato a proposito, oppure no? No, non ho dati, quindi mi fido della tua impressione, assolutamente. Io sì, non credo che ci fosse, come dire, sono entrati soggetti che hanno un gran bisogno di piazzare soldi, sono entrate queste casse di previdenza che sono da tempo disperatamente alla ricerca di investimenti che rendano, ecco, e hanno valutato che Fico lo sia, ecco, io non ho nessun dubbio sul fatto che possa rendere o che venga fatto rendere, grazie a, come dire, le tante strade aperte che ha trovato. Wolf, tu sei autore della Danza delle Mozzarelle, anche della Santa Crociata del Porco, insomma ti sei occupato di cibo, ma soprattutto nel tuo primo libro hai parlato molto della narrazione di Farinetti, di Italy, di Slow Food e anche del Gambero Rosso. Come valuti la narrazione che c'è stata attorno a Fico? Diciamo molto prevedibile, ripete assolutamente e porta a livello proprio, come dire, istituzionale quasi, no? come se lo iscrivesse nella Costituzione materiale italiana, questo tipo di narrazione tutta proiettata a una rappresentazione, diciamo, un po' edulcorata dell'agricoltura, eccetera, eccetera, e proiettata tutta sul turismo. Io penso che forse questo, no, al di là delle beghe più o meno interessanti, quella sui cartelli mi sembra di un interesse veramente minimo, sì. quella su no, ma non lo dico perché, cioè, vuol dire giusto riferire, no, però l'accanimento politico, no, di alcune parti su questo, boh, la stessa sulla chiusura del consiglio regionale, è ovvio, cioè l'istituzione ha giocato tutto su questo intervento, su questa grande opera e grande evento. Il problema è perché questo diventa la cosa importante da spingere, mentre in realtà è evidente che i problemi che abbiamo, quelli sociali, sono tutt'altri e saranno sempre più aggravati da questa enfasi sul turismo e su questo tipo di opere. Il delirio del decoro che attraversa la nostra città è in buona parte come motivazioni legate alla questione turistica. I turisti vengono e non devono trovare le strade sporche o, peggio ancora, non devono trovare poveri in strada. Credo che tutto questo entri molto bene nell'amalgama di Fico. Ecco, però, come dire, in questa narrazione di Fico si è tentato appunto di spingere molto sull'educazione, sul fatto che è un parco dove si insegna la biodiversità e tutto quanto, però alla fine, poi magari sentiremo anche Turrini che ha fatto una recensione molto divertente su questo tema, alla fine è un centro commerciale. Ha tutta l'aria di esserlo. Quello che vorrei dirmi, approfitto sull'educazione, è che io sono convinto che saranno corsi fantastici quelli che faranno e saranno molto seri. Il problema è il framing. Il problema è che il bambino o il meno bambino che va lì a fare educazione alimentare lo fa in quello che ha tutta l'aria di essere un centro commerciale. E quindi impara che quello è il luogo in cui si parla di cibo, quello è il luogo in cui si imparano le cose sul cibo. C'era un luogo, per esempio, per fare un esempio tra i miliardi, che ha fornito forse i suoi pezzi più belli al Fico, che è il Museo della Civiltà Contadina Bentivoglio, dove per esempio l'esperienza della gita scolastica in cui si parlava di cibo era una roba molto diversa dall'esperienza quotidiana del bambino, del ragazzino. Andare al Fico è replicare il sabato successivo quando andrai in un centro commerciale con i genitori. Tra l'altro alcune macchine presenti al Museo della Civiltà Contadina sono state portate a Fico. Sì, da lì partivo, infatti. Esatto, esattamente. Certo. Intanto grazie Wolf, non so se tu hai ancora tempo per restare con noi o devi scappare. Finché si scarica la batteria. Va bene, allora noi a questo punto facciamo un'altra pausa musicale, poi c'è la pubblicità e poi torniamo subito dopo. Gesto. 17:31 minuti, questo è lo speciale Il Fico Indigesto, l'indigesto dedicato all'apertura, all'inaugurazione di Fico. Sono già arrivate alcuni lanci di agenzia sulle dichiarazioni del premier Gentiloni, ma le leggo dopo perché vorrei chiedere il commento anche a Wolf Bukowski. Però appunto parliamo appunto di Fico. Tra i tanti dati che ci sono c'è sicuramente quello di questi 2 ettari, che sono una superficie relativamente piccola, insomma, diciamo, con 2000 cultivar. Abbiamo fatto i conti, sono 10 metri quadri per cultivar, quindi un poco più di un parcheggio per auto, però insomma questo deve servire anche come dire a scopo espositivo. Davide è andato appunto a Fico nel giorno di apertura per la stampa e ha fatto una recensione molto divertente. Riassumecela. La riassumiamo in 2 parole: fiera campionaria, punto. Fico, come si diceva poc'anzi con Wolf al telefono, che è ancora al telefono, vero? Sì, penso di sì. È una mera fiera campionaria, ci sono gli stand, ci sono gli assaggi, ci sono proprio c'è un disegno a livello di set, no? A livello scenografico. Se pensiamo che Fico nella sua complessità dà uno spazio enorme a un signore che ha una sorta di bagno di con le cabinette, la sabbia, i racchettoni, no? Dove vai lì, tu ti levi le scarpe e cominci a sracchettare. Ma è freddo? Sì, però ti scalda la mortadella, metti 2 fette di mortadella, torna ai piedi e okay. Poi isola. Non so, c'è una signora che vende delle piante, dei ciclamini, e questa signora per esempio ha raccontato la visionarietà di Farinetti. Io gli ho chiesto: ma signora, ma cosa c'è di visionario nel vendere piante? E qui ritorna lo storytelling, quindi una fiera campionaria ovviamente venduta attraverso lo storytelling farinettiano, insomma. Se facevano il 2 novembre c'erano i crisantemi. Ce li avranno il prossimo 2 novembre. Okay. Ricordo Segre che nei numerosi momenti in cui hanno rimandato l'apertura diceva: ma non si può fare aprire Fico in autunno, Fico va aperto in primavera quando sbocciano i fiori, e invece siamo in autunno. Aggiungo un ultimo aspetto molto interessante che ci collega anche a uno sfruttamento, definiamolo così, espositivo animale, proprio della materia di cui sono fatti gli animali, cioè la carne e le ossa degli animali. L'emblema è questa cagnetta che, un po' come Laika nell'Unione Sovietica, rimarrà per tutta la vita Fico a cercare un tartufo che la sua istruttrice seppellirà 10, 20, 30 volte durante il giorno. E questa cagnetta in questo angolino, insomma, ci sono molti cani, lo sapete, no, che vivono tutta la vita in casa, quindi, però insomma è un modo anche questo davvero di ripetere a livello didattico un procedimento, una procedura di come si trova, no? In questo caso, no? Questo prezioso tubero, ma alla fine francamente si fa molta fatica, anche perché questi tartufi non vengono mangiati, cioè perché poi il cibo che qui verrebbe preparato eccetera non verrà mai mangiato, cioè tutto un fare dimostrativo, no? Si passa dall'auricolare all'ambra, no? Modello spela patate, no? Vi ricordate nelle fiere, no? C'è quello che vi vende il pela patate e si arriva a quello che vi vende il tartufo. Ecco, cioè Fico è qui, Fico sta là, e tra l'A e la Z di Fico sono queste, no? Il piazzare dei prodotti e il simulare una filiera, e quando poi la filiera effettivamente non la puoi ripetere se non lì dov'è. Ecco, a proposito di filiera, tu appunto già nella tua recensione, Davide, dicevi che c'è un passaggio che della filiera viene omesso. Sì, viene omesso ovviamente la macellazione. Ora qui non siamo in un conciliabolo vegano in questa stanza, però il punto c'è, cioè la riflessione oramai nel 2017 ce la possiamo porre senza problemi. Fico omette chiaramente la macellazione, e quindi insomma anche questo, no? Illustrare come un procedimento viene dell'agroalimentare va avanti e rimane fuori quel pezzo, ovviamente quello non mostrabile. Insomma, mi vengono in mente alcune parole, insomma, di tanti animalisti che conosco, non è forse questo il momento di elencarle, però insomma il macello ha delle pareti molto spesse perché non si può vedere oltre, se si vede oltre altre, si fa un po' fatica a vendere i prosciutto. Ecco, torno a Wolf un attimo per chiedergli un commento a una delle dichiarazioni di Gentiloni, che appunto ha appena inaugurato questo parco agroalimentare, e dice: ma che nicchia, l'agricoltura di qualità è tesoro. Ecco, come se, come dire, all'interno di Fico ci fosse un'agricoltura di nicchia, insomma, è così? Ma diciamo che fa appunto parte di quel modello farinettiano in cui si suppone un rilancio dell'Italia a partire dall'economia italiana, a partire dall'export agroalimentare e dal turismo. Ecco, il problema è che, a parte che è una pura supposizione e anche una serie di economisti non sono affatto convinti che sia sensata, ma il problema è che questo tipo di rilancio su quel tipo di prodotti e modelli economici non garantisce affatto un miglioramento della situazione sociale complessiva dal punto di vista economico, cioè è una ricchezza che può benissimo rimanere in pochissime mani. Il turismo è uno delle macchine di sfruttamento e di lavoro sfruttatissimo peggiori che possano esistere in tutto il mondo, non solo in Italia. E dunque, appunto, ripetere questa formuletta giusto perché ci si abbarbica qualcosa, pur di non ammettere il totale fallimento del modello iperliberista che è stato proposto negli ultimi decenni, ecco, mi sembra una cosa non solo brutta da sentire, ma anche proprio pericolosa per il futuro delle persone. Se mi permetti, che sì. Qui mi hai fatto fare lo scalfere della situazione a commentare quello che dice Gentiloni, mi voglio riattaccare una cosa un attimo detta da Davide, che è quella sulla tartufaia, che io l'ho notata lì, poi è stato leggendo il suo articolo che ho capito che era importante quella tartufaia, perché è l'unico posto che assomiglia a un bosco dentro Fico, e complici i colori autunnali, io sono andato a Fico col 14C, lo racconterò appunto in questo pezzo che esce martedì su Giappa, e il 14C ti lascia al pilastro e passi attraverso quegli ultimi due campi, che sono due campi minacciati e che sono profondamente legati al progetto Fico. Uno di questi due si sta rinaturalizzando e sono le famose aree annesse sud di proprietà della Fondazione Carispo. Ecco, quel bosco lì che c'è dentro area annesse sud è la vera tartufaia. Peccato che quel bosco lì sia a rischio, perché appunto tra l'impasto di scelte che ha portato anche a Fico e fortemente collegato a Fico c'è anche quello di confermare e approfondire la cementificazione di quelle zone con residenziale, poi qualcuno non si vorrebbe il centro commerciale, Mero l'ha detto no, però insomma il concetto è che lì si costruisce. Quindi di fronte a un parco che si propone come la tutela anche del paesaggio italiano, la distruzione avanza ad opera degli stessi soggetti politici che sostengono fortemente Fico. Ecco, mi hai lanciato un assist involontario, Wolf, perché tra le agenzie uscite su Fico c'è questa notizia di oggi: Carisbo Intesa San Paolo apre una sua filiale nel parco agroalimentare. Questa lo diciamo così, insomma. Sì, tra l'altro la Carisbo, lo sportello Carisbo all'interno di Fico è di fianco alla cappella. Io volevo fare questa breve digressione: c'è una piccola cappella che è una sorta, cioè, vedete, a quelle porte da ufficio ministeriale col vetro smerigliato, no? Piccolissimo, in un angolo c'era anche un aggeggino, un macchinino parcheggiato davanti che non si spostava. Io avevo bisogno di una piccola preghiera, certo. E ho chiesto a una guardia di spostare questo macchinino e non riusciva a togliere. Dimmi, c'era il mega direttore galattico? È arrivato, ok. È arrivato e questa è stata la cosa. Io non la vedo proprio, ma cosa dice, che sono comunista, moderato progressista. Comunque, insomma, se volete pregare, avete un momento di preghiera tra uno spaghetto e una mortadellina, tra tra un Barolo, perché Farinetti vende molto Barolo, molto Barolo e poco San Giovanni. Biodinamico è un po' complicato da fare. Sì, sì. Potete pregare in questa cappelletta che è là verso il centro congressi, ricordatelo, con due candeline. Dicono che ci sia anche una suora che giri lì da quelle parti. Sì. E la leggenda del barone, della santa e del fico fiorone. Pupi avanti. Vedi, pupi ecco, avanti. Bene, a questo punto andiamo con la musica. Io ringrazio Wolf e devo mettere giù perché dobbiamo richiamare la nostra inviata sul campo. Ciao. Grazie. E buon pomeriggio. Ciao. E andiamo con un brano, insomma, anche questo a tema alimentare. Bye. e sei per far la gita senza liti sul tramvai, con due valigie, tre pacchi, una borsa, un cestino e con mamma. Barabara, barabara. Minestrone, la cioccolata e l'insalata, il baccalà, il parmigiano, lo zafferano, la mozzarella e la cannella, la pasta al pesto, il pollo arrosto, il baccalà. Non c'era proprio più niente da desiderare, erano tre giorni che stavamo a preparare le due valigie, i tre pacchi, la borsa, il cestino, con mamma. E la frittata, i formaggini, i fagiolini, la frutta cotta e la ricotta, il baccalà. E questo era Nino Ferré con il baccalà, che ci riporta in diretta al fico indigesto. C'è un'altra dichiarazione del premier Gentiloni riportata dalla Dire, che fa un parallelo con Expo, anzi doveva nascere proprio fico, doveva nascere in tandem, diciamo, alla fine di Expo. Non è stato così, evidentemente è nato due anni dopo. C'è un filo che lega tra loro Expo 2015 e fico, e farà bene all'Italia. Ora, a giudicare da come Expo ha fatto bene all'Italia, insomma, non, adesso non mi ricordo la cifra, però insomma si parla di milioni di debiti, sì. E del problema poi di che fare di quelle strutture che ha attanagliato l'amministrazione Pisapia prima e Sala dopo, non poco, insomma. Sì, la tirata, dicevamo, sì, la tirata scongiuri. Molto scongiuri, tutti a toccare le affettatrici e i raggi delle biciclette e la valeriana, perché i quadrifogli non ci sono. Ci sono, c'è della maggiorana, se vuoi. Aspetta, avevo elencato le varie insalatine. Certo, io non pensavo neanche. Ma non si possono mangiare? Non si possono mangiare. Tu le guardi, non le mangi? Vengono servite nei piatti quadrati. Perché io vado solo in ristoranti con i piatti quadrati. E le salviette che a me piacciono tantissimo. Va bene, noi siamo di nuovo in collegamento con Anna Uras. Anna, ci sei? Sì, ci sono, ciao e buon pomeriggio a tutti. Nel frattempo mi sono addentrata all'interno di Fico, non ho idea di dove io sia, se devo essere sincera. Ci si perde, vero? Si perde moltissimo, però sono sotto un cartello che dice grazie di essere stati a Fico, se siete stati bene tornate, quindi penso di essere nel posto giusto. Sì, all'uscita. Si passa dal via. Diciamo, sono sotto questo cartello tra un Emil Banca e un negozio di lampade. Di lampade? A Fico vendono delle lampade? Vendono lampade? Se noti, vendono anche, mi pare, dei quaderni, delle penne, vendono di tutto dentro Fico. Per il nostro direttore, lui mangia le penne. Io mangio le penne, quindi mangio, potrebbe essere un modo per non avvelenarmi. E infatti, no, c'è di tutto davvero, c'è una libreria. Hai visto, Anna? Devo dire, ho visto veramente poco, ho camminato dritto per un po', mi sono trovata sotto questo cartello e ho pensato che fosse il posto giusto. Ho visto ci sono tantissimi gadget di Fico, tantissimi lavoratori di Fico, perché devo dire, vedo moltissime persone col cartellino e altri credo siano in incognito. Ora spero di trovare anche qualche... Sì, prova ad affermare di nuovo qualcuno, dai, che sentiamo ancora impressioni. Adesso un'oretta di tempo ce l'hanno avuta per visitare questo parco agroalimentare, avranno già un'idea, una prima impressione. Proviamo, adesso ne ho puntata una. Ne ha puntata una, sì. Forse è la signora Farinetti? Speriamo che non sia la signora. Sarebbe bellissimo, sarebbe perché, bello. Perché sì. Tra l'altro, adesso Gentiloni sarà già andato via. Spero che, sono stata liquidata con... È una cosa bellissima. Ora è una cosa bellissima. Bene. Bene, ritenta. Oh, no, noi prendiamo visto... anche recensioni positive, non sì, solo negative. Ho visto Gentiloni al Pellegrino. No, ma sono scappate poi. sono scappate, gli hai fatto paura. Cerca qualcun altro, dai. No, sai qual è il problema? Probabilmente sono le 5 e tre quarti, quindi non è ancora il momento dell'aperitivo, ancora un tre quarti d'ora. Come fai? Ti mangi la lasagnina adesso? Come fai? No, dici. Se... Sentiamo. E voi mi sentite ancora o certo. Trovate qualcuno disposto a rispondere? Vai. Allora, prima di tutto... Luciano. Allora, Luciano, ha girato un po' a Fico, cosa ne pensa? Cosa lo rende diverso da un altro centro commerciale? Ma è un grande supermercato. Opala. Le dimensioni, quindi. Comunque stai facendo domande pilotate, Anne. Made in Italy alla grande. È una grande Italy, che già esiste. Sì. Poi ho visto tanto la parte interna, quindi manca ancora la parte esterna. Dentro è un enorme supermercato. E per quanto riguarda i prezzi, sono come quelli di un supermercato? No, assolutamente, sono più alti. Opala. Vediamo se hanno qualche domanda anche dallo studio nel frattempo. Sì, no, beh, interessante. Questo signore, cioè, la bocca della verità, è un bambino, sai, l'innocenza dei bambini. Certo. Luciano è il nostro pupo della giornata. No, è vero, confermo. Senta, Luciano, le posso chiedere una cosa? Mi sente? No. Passacelo direttamente. Sì, Luciano? Buonasera, qui è Radio Fujiko, buonasera. Senta, no, le volevamo chiedere questo, ma adesso che sta uscendo, che è quasi vicino all'uscita, torna a casa, racconterà ai suoi amici e parenti di tornare a Fico o è un po' deluso? Perché ci è sembrato un po', ha detto, supermercato, prezzi alti. Allora, un'opera grandiosa, non c'è dubbio, il più grande centro agroalimentare europeo, non c'è dubbio, grande esposizione, grandi marchi. È un enorme supermercato per me. Quindi puoi avere i ristoranti, è un enorme centro commerciale. Nulla di più, però ti dico, l'ho visto solo all'interno, fuori non ho avuto il modo di apprezzarlo. Veramente una grande opera. Ascolta, un po' di brand, è la casa degli italiani, sicuramente un centro espositivo dove la gente può venire a comprare, insomma. È interessante, però è un enorme supermercato, dai. Certo, no, perché andare a comprare il parmigiano che costa di più fino a Fico, insomma, è un po' no, autolesionista. No, però va benissimo per gli stranieri, magari vengono volentieri. Ah, ecco. A fare un giro con la famiglia, ti mangi un panino, fai un buon piatto, ti mangi il tartufo e poi compri anche il parmigiano. Magari una marca che non conosci. Ah, ecco. Però è un supermercato. Quindi, no, insomma, punta al turismo straniero, sostanzialmente. Ma secondo me sì. D'altronde tu vai a comprare da Italy, non ci penso neanche. Italy si va quando fanno le offerte, Luciano. No, quando fanno il 40. troppo caro. Insomma, è caro. Allora, sull'estero vanno quelli che sono in nota spese. Il centro Italy all'estero, trovi soltanto le famiglie di quelli che sono in nota spese. Che quindi sono degli espatriati, quali hanno la possibilità di comprare e di mettere il nostro stesso. Se no, non vai davvero a comprare un parmigiano in Turchia o a New York o a un altro posto. Certo. Beh, insomma, comunque abbiamo cominciato a connotare, no? Già grazie persone... mille, Luciano. Grazie, Luciano. Certo. L'abbiamo già cominciato a connotare, no? Dalle persone che lo stanno frequentando, ci abbiamo capito un po' di cose. Luciano non si fermerà a cena, da quel che ho capito. Non credo, mi sa che tornerà fra un po'. Anna, sei ancora fra noi? Sono ancora qui con voi, sì. Ecco, c'è un'altra persona che puoi fermare? Tento subito. Perché siamo anche un po' in dirittura di arrivo. Ovviamente, sul fico si tornerà sicuramente a parlare, perché insomma ci sono ancora molti capitoli da affrontare, tra cui anche ad esempio quello del lavoro, che abbiamo toccato tangenzialmente prima con i promoter, però magari bisogna capire anche un po' i dipendenti che contratti hanno, quanto prendono, eccetera eccetera, anche perché insomma Farinetti su questo versante ha avuto un po' di grane in passato, Davide? Sì, ha avuto un po' di grane in varie aperture di Italy, insomma non parliamo di scandali veri e propri, però insomma un po' di problemini li ha avuti. Tra l'altro c'è un aspetto, adesso Anna manca poco alla fine della trasmissione, però che io ho provato a porre diverse volte una domanda secondo me importante, cioè quanto gli affitti dei vari stand a quanto arrivavano a livello di costi, e nessuno me l'ha detto. Tra l'altro è una domanda, proprio una specie di come dire, di segreto inconfessabile. Nessuno vuol dire quanto paga per stare lì. C'è chi mi ha detto a percentuale, c'è chi mi ha detto che sta lì 2 mesi, chi un anno, chi tre più tre, chi tre più uno, i 4x4 in Oro Orlandi, sai, quelle cose, certo, che si dicono. E insomma è un po' è curioso, no? Perché io credo che comunque sia anche molto importante dal punto di vista economico-finanziario quanto sborsano questi stand, perché sono tanti e sono poi loro, no, che metteranno poi a casa qualcuno se non venderanno. Voglio dire, c'è una signorina che vende noccioline, cioè c'è un piccolo stand dove si vendono noccioline anacardi di qualità, per carità, di brustolini qualità. Brustolini non so, semi di zucca sì, okay. Ma brustolini, dicitura brustolini, ragione, non la dicono più, oggi è semi di zucca. Allora, bio. Prego. Sì. Se mi sentite mi reinserisco in diretta, sono qui con Emma, che non credo mi sappia dire quanto pagano di affitto dagli stand, però possiamo richiederle come ha trovato fico, insomma, sì, finora. Posso parlare? Come ho trovato fico? Beh, conosco Italy, perciò tramite, vabbè, tutta la pubblicità sapevo di questo progetto, avevo letto da qualche parte, insomma, per cui... Credo non ci siamo capiti con la domanda, nel senso, cosa ne ha pensato di fico? È arrivata qua, se l'aspettava diverso, lo trova... Insomma, cosa ne pensa, cosa lo rende diverso da un centro commerciale anche? Per me è veramente fico, a parte vabbè, fabbrica italiana contadina, ma è proprio fico sto posto. Secondo me avete preso un sacco. E come prezzi, yeah, come siamo? La roba di qualità, ovviamente, io che vado a fare la spesa, se compro una cosa di qualità, costa. Se voglio della, scusate il termine, passatemelo, della schifezza, allora... Glielo passiamo. Quindi Anna, le puoi chiedere se è una cliente abituale di Italy? Non mi sì, se comunque sembrerebbe dalle parole di questa signora che lei faccia la spesa a Italy, quindi ad esempio abbiamo un Italy nel pieno centro, no? In via intorno all'ambasciatore, se non sbaglio. Sì, ambasciatore. Mi chiedevano dallo studio dove fa lei la spesa di solito, se non la fa qui a Fico. No, anche perché io abito a Comacchio. Tell dig. Solitamente preferisco andare in macelleria, dal fruttivendolo, perché il mio paese è piccolo, per cui preferisco andare proprio dai vari negozianti. E qui le sembra di ritrovare la stessa cosa, il macello e il fruttivendolo. E qui tra l'altro sono proprio divisi per sezione, per cui se uno vuole una determinata cosa la trova. Senta, diciamo solo se hanno qualche sì, io volevo chiedere, ma signora, visto che è arrivata, sì, io volevo fare una domanda io, ma le interessa poi andare a vedere le mucche lì esposte, la piantina di insalata, le interessa qualcosa? Cosa si aspetta da quella carrellata di... Mi riferisco alla domanda, sì. Le chiedo se le interessa vedere anche le mucche esposte, le piantine, le insalate, che cosa si aspetta da questa parte di tipo? Spero, per rispetto ovviamente per quanto riguarda gli animali, però non l'ho ancora visto, per cui non posso dire se è nelle mie aspettative quello che vedrò, insomma. Bene. Bene, ci fermiamo. Va bene, grazie allora Anna ancora, e noi siamo veramente arrivati alla conclusione quasi di questo speciale, e quindi ringraziamo la nostra Anna Uras da Fico. Mi raccomando Anna, visto che sei in bicicletta, metti il catarifrangente, perché adesso è buio e quella zona diciamo che è un po' pericolosa, ecco. Sì, sarò attenta, grazie a voi. Ciao. Grazie. Ciao. Allora, cominciamo con un ultimo giro di impressioni e andiamo da Guglielmo, il nostro talebano alimentare misterioso. Sì, infatti, allora, chi ha il pane non ha i denti e viceversa, da Comacchio viene a picco, insomma, quindi c'è una transumanza dalla bassa che io amo, vissuto tanto e non faccio altro che raggiungerla quotidianamente, e invece dalla bassa c'è un avvicinamento alla globalizzazione della città, insomma, questo è un po' un ossimoro che abbiamo trovato. Però io volevo chiedere alla signora se ha trovato le anguille, perché non credo che ci sia un'ottima pescheria. No, comunque, no, detto credo. Questo, ovviamente, c'è, abbiamo. Però è interessante questa cosa che diceva, che le dà un po' l'impressione della bottega, no, di vicinato, così. Sì. Ed è forse questo anche un po' il gioco su cui specula un po' Fico, cioè il fatto di prendere un sistema agroindustriale che non ha nulla a che vedere con le botteghe di vicinato, come appunto filiera eccetera eccetera, e dare l'impressione di comprare dal panettiere, di comprare dal vicino ortolano eccetera eccetera. Sì. Questo forse è uno degli strumenti di marketing che faranno più presa. Sì, assolutamente, diciamo così, una sorta di capriola di target, no? Che se a Farinetti gli riesce è un vero genio. Intanto si porta dietro chi già va a spendere da lui, chi va ad acquistare da lui e chi ha un'idea, come dicevi tu Alessandro, del cibo buono, di qualità, che è un po' la nuova classe media, no? Cioè si sta costruendo questa nuova classe media borghese progressista. Moderatamente. Se Farinetti, il carpiato dov'è? Il passaggio dov'è? Riesce a portare lì anche ovviamente la spesina del Lidl o la buttatina alla Coop eccetera, ecco, se riesce a fare questo ovviamente fa saltare il banco. Se punta solo su chi va da Italy, meglio che stia nei piccoli punti vendita dei centri città, ecco. Io vado alla macelleria di Pellegrida vicino a Isola della Scala, dove vendono il magro del salame al tastasal e mi faccio un bel risotto, sai. Che bene, mi state facendo venire fame, quindi ci salutiamo perché siamo veramente arrivati alla fine. Grazie mille Davide, grazie a voi, mille ciao. Guglielmo, ciao, e ciao, grazie ciao. Ovviamente chi ci ha ascoltato. Bella l'uva fogarina.